U panino ascellato di Maruzzi Pilus, l'unico panino che ti viene riscaldato con l'ascelle. Presentano assieme ai furbi ladroni che tentano di rubare programmi, loghi e cose a destra e a manca, partendo dalla Valle dell'Esero fino ad arrivare ad Acri, fino a ridiscendere per Casa Maneggio a Bisignano. Ritroviamo un appuntamento storico, i grandissimi Giovanni e Nicola! Giovanni, nel tentativo di conquistare il cuore di Maria Assunta, si iscrive ad una scuola di francese. Ed ovviamente ci si iscrive anche Nicola. Giova, ma che cazzo siamo facendo alla scuola di francese? Che manco sappiamo parlare italiano, mannera. Ma non ti preoccupare, Nico, tu ti fedimi. Come no? Ogni volta che facciamo una cosa, capopone, tu o finisciamo un cavolo o ne ingane i bot. Hai ragione, ma io penso che a quello francese si possa conquistare Maria Assunta. Ma almeno sa che ha questo francese. E certo, ma l'ha visto i femmine francesi. Ma tu ne conosci i femmine francesi? Certo, non ti ricordi Edwidge Frenich. Edwidge Frenich si dice, comunque che letto di sera, meglio. Sì, è mamma terra marocchina, andiamo, meglio. Giovanni e Nicola si accingono ad andare alla scuola di francese, dove li attende Jean-Philippe Cianciaruso, noto organizzatore di Gay Pride del sud della Francia. Buongiorno, cari ragazzi. E giù, ma che sei? Mi mancano solo le orecchine, le belle orecchie. Ma sei impazzito? Gli orecchini sul vestito a tinta unica, ma in che mondo vive? Ma non capite nulla di moda. È un ingazzato, è così froggio, è così maleducato. Va bene, lasciamo stare. Andiamo alla lettura del vostro essere. Vediamo tu, Nicola. E ti pare sempre con me, era madonna. Allora, inizia a leggere, dai, sbrigati. Vabbè, allora, Gesù è la madonna, non ci capisci uno cazzo con questa lingua di merda. Mi sa che tu hai bisogno di qualche lezioncina privata. Nicola segue il professor Cianciarusso in una saletta privata e ne esce dopo un'ora, facendo molto preoccupare Giovanni. E la miseria, Nico, ma di cazzo è finito, che questo non ci vuole manco venire, mo mi fa perdere pure il tempo. Nico, Giova! Come è bella sta lingua francese! Mi sono proprio appassionato, professor, continuo la lezione, che venimo dopo, ciao! Io sono diventato pure riccione, e mi faccio sperare a me un po' di cacchino ammazzare i botti, come a chi destra male muscio. Riuscirà Giovanni a riportare Nicola sulla retta via? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Ricordiamo che i DVD di Giovanni e Nicola sono disponibili nell'edicola Rete Carceri, nel nuovo bar presente presso l'ospedale, ovvero direttamente nell'obitorio, e dalle peggiori edicole di Caracas.